Le 13 e un minuto. GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Non solo caso e fatalità davanti a 10.000 persone tra cittadini, amici, parenti delle vittime, l'arcivescovo di Lucca chiede verità per la strage ferroviaria di Viareggio. Tutto è pronto per il G8 dell'Aquila, in arrivo le delegazioni straniere, fermati intanto 5 giovani di nazionalità francese, erano in possesso di mazze e altri oggetti per offendere. A Roma 2 scontri vicino all'università. Vogliamo una Russia forte e prospera, non siamo più antagonisti. Il presidente americano Obama nel secondo giorno di visita a Mosca all'indomani della storica firma dell'accordo per la riduzione delle testate nucleari. Sorpasso in TV, Sky va avanti a Mediaset per ricavi pubblicitari nel mercato italiano, lo dice l'autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni, che accusa anche i TG più che una finestra sul mondo, sono una finestra sul cortile di casa. Si intitola Caritas in Veritate, la nuova enciclica di Papa Ratzinger. Benedetto XVI chiede un lavoro decente per tutti e invita a ripensare le regole della globalizzazione. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizio. Dunque, si sono svolti questa mattina allo stadio di Viareggio i funerali di 15 delle 22 vittime del disastro ferroviario della città versiliana. A celebrare l'arcivescovo di Lucca, abbiamo fatto una lunga diretta anche su Radio 24, presenti le massime cariche dello Stato. Allora torniamo a Viareggio con Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Sì, ancora buongiorno. Non solo caso e fatalità, chiede più volte perché l'arcivescovo di Lucca nella sua lunga omeria e più volte invoca più sicurezza sul lavoro, rinnovando l'appello del Papa. 15 bare sono allineate sulla prato dello stadio dei Pini, 15 delle 22 vittime del disastro, e davanti all'Italia che piange le vittime del suo peggior disastro ferroviario dalla dopoguerra, l'arcivescovo di Lucca, dunque Italo Castellani, sollecita la ricostruzione del percorso di verità per ridare dignità, dice, ai morti. Sentiamolo. Quel fuoco mi ha profondamente impressionato, quei bagliori nella notte, altrimenti segno di calore e di sicurezza, sono sembrati il visibile di un non senso, di un negativo assoluto che tutto fagocita e tutto distrugge, alimentato certamente non solo dal caso e dalla fatalità. Due mesi dopo il terremoto dell'Aquila, altre bare sono allineate su un prato e più volte nella cerimonia dei funerali Viareggio e l'Aquila sono state unite in un unico abbraccio di dolore. Allora come oggi il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, si è fermato davanti a quei feretri di quest'ultima sciagura italiana, davanti soprattutto a quelli della mamma con i suoi due bimbi, Luca e Leonardo. E l'unico superstite, Leonardo, il terzo fratellino, è stato ricordato dall'arcivescovo in chiusura della sua omelia insieme ad un altro simbolo di questa tragedia, una giovane donna marocchina rimasta sola qui a Viareggio. In conclusione di questa lunga e commossa cerimonia che si è celebrata qui allo stadio davanti alle più alte cariche dello Stato, ad una nutrita delegazione dell'esecutivo, ma non c'era il premier Silvio Berlusconi, e davanti soprattutto a 10.000 persone, il tenore Andrea Bocelli ha voluto rendere omaggio e partecipare al dolore dei suoi concittadini intonando il Panis Angelicus, ed è stato un momento di grande commozione. Il capo dello Stato, dopo aver lasciato lo stadio dei Pini, si è diretto all'ospedale per far visita ai 22 feriti che ancora lottano tra la vita e la morte per le ustioni riportate una settimana fa. Alessio. Grazie Raffaella Calandra. Tu accennavi all'Aquila e allora noi proprio all'Aquila andiamo per parlare però del G8, perché a 24 ore dall'inizio del vertice internazionale città blindata per i primi arrivi dei leader mondiali, circa 15.000 gli uomini delle forze dell'ordine messi a disposizione, strettissimi controlli lungo le strade da Roma all'Aquila, ci sono già state le manifestazioni proprio nella capitale vicino all'università, mentre all'Aquila ci sono già stati anche dei fermi. Ne parliamo tra poco, prima però andiamo all'Aquila per la cronaca di questa giornata con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. È iniziato dunque il conto alla rovescia qui nella cittadella della Guardia di Finanza di Coppito. Siamo esattamente a 24 ore dalla colazione di lavoro che aprirà domani il G8. Sono già operative le strutture delle varie delegazioni internazionali. I primi ad arrivare sono stati giapponesi e canadesi. Folta la presenza anche dei brasiliani, paese questo che partecipa al vertice allargato. Entro la serata di oggi saranno sul campo tutte le delegazioni dei paesi che da qui a venerdì, e saranno oltre 30, parteciperanno a vario titolo al summit. C'è molta curiosità anche intorno all'arrivo di Gheddafi, la seconda visita del leader libico in Italia in poco più di un mese. Gheddafi farà allestire anche qui nella caserma di Coppito la tradizionale tenda beduina. C'è molto riserbo poi intanto intorno alla delegazione americana. Sono top secret quelli che saranno gli spostamenti e gli orari del presidente Obama. Sul fronte dei documenti preparatori non si arresta intanto il lavoro diplomatico dei cosiddetti Sherpa. Ciascuno degli 8 grandi si presenta all'appuntamento con una o più priorità. Secondo il presidente del Consiglio Berlusconi, quello dell'Aquila sarà il G8 delle regole per finanza ed economia. Il presidente americano Obama punterà su temi planetari come i cambiamenti climatici. La Gran Bretagna presenterà un piano anticrisi in 5 punti. Sicurezza ed energia sono i 2 temi più caldi per la Russia. Il presidente francese Sarkozy farà della lotta ai cambiamenti climatici uno dei suoi cavalli di battaglia. La Germania chiede un messaggio forte sulla regolamentazione dei mercati finanziari globali. Crisi e non proliferazione, le priorità per Canada e Giappone. E dall'Aquila è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo. E a proposito degli Sherpa che stanno preparando i documenti, insomma, che saranno alla base del vertice G8, tra poco sentiremo il capo di quelli italiani, il lavoro che sta facendo. Restiamo però all'Aquila perché, come dicevamo, ci sono stati anche dei fermi. Si tratta di giovani francesi. Che è successo, Marcello Ianni? Sì, buongiorno. 5 giovani di nazionalità francese sono stati fermati all'Aquila dai carabinieri della compagnia nell'ambito dei controlli preventivi in vista dell'imminente G8. Sono stati trovati in possesso di mazze e altri oggetti e per questo sono stati denunciati a pene libero per detenzione di materiale atto ad offendere. Il furgone, come ha detto il tenente colonnello Giovanni Di Niso, comandante del reparto operativo dei carabinieri dell'Aquila, è stato fermato mentre transitavano una strada di pettino. In questi giorni, ha concluso l'ufficiale, alto il livello di vigilanza intorno all'area che ospiterà il vertice. E intanto tra i comitati spontanei di cittadini è stato grande sorpresa l'arresto di ieri di Egidio Giordani, il 23enne di Napoli, accusato insieme ad altri 20 giovani di aver partecipato agli incidenti di Torino in occasione del G8 universitario. Il giovane era stato fermato all'Aquila poco prima di partecipare alla fiaccolata indetta per ricordare le vittime del sisma. Nessuno di noi lo conosceva, ha detto Marco Valeri del comitato 332 dell'Aquila. Si è presentato chiedendo di poter partecipare alla fiaccolata e di sistemarsi qui con una tenda. Infine, ancora in corso nella villa comunale, il forum per la ricostruzione organizzata dai comitati spontanei. Per domani invece è previsto un sit-in. Per il momento è tutto e vi restituisco la linea. Grazie Marcello Ianni. Dicevamo, manifestazioni a Roma davanti all'Università della Sapienza. Un centinaio di studenti del movimento dell'Onda ha preso d'assalto a calci e pugni una camionetta della Guardia di Finanza che impediva l'accesso all'entrata principale dell'Ateneo. Invece davanti a Roma 3 alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie, sassi e fumogeni proprio contro le forze dell'ordine. Tra poco andremo a Roma per vedere com'è la situazione. Ma dicevamo, il lavoro di preparazione del vertice G8, ci prendiamo una pausa e sentiamo che cosa ha raccontato Giampiero Massolo, segretario generale della Farnesina, capo degli Sherpa italiani per il G8, a Sergio Nava, che gli ha chiesto di analizzare punto per punto i temi principali in agenda. È un processo lungo che deve partire da un salto culturale, ed è quello che si sta realizzando, e se i leaders, come noi auspichiamo, lo adotteranno, sarà stato compiuto. Successivamente è l'individuazione dei principi e successivamente ancora è la pratica, diciamo in qualche modo, individuazione delle norme. Non si pretende di dare luogo a norme nuove, si pretende di rendere più visibile, più organico, più comprensibile un set di norme per lo più già esistenti. Quanto alle, quindi un processo lungo, un processo che in qualche modo deve pur partire. E quindi che poi sarà solo l'inizio il giro? Sarà l'inizio e si svilupperà, però non sottovaluti l'adozione di un set di principi e il salto culturale di cui parlavo prima. E infine, quanto all'efficacia, avrà esattamente l'efficacia che hanno gli accordi internazionali e che sono quindi vincolanti per chi li sottoscrive e per chi li disapplica viene sottoposto alla censura della comunità internazionale. Sull'ambiente, quanto questo G8 potrebbe rappresentare un passo importante verso Copenaghen, una svolta se vogliamo? Ma noi speriamo che la rappresenti, perché riteniamo che un impegno determinante da parte americana abbia un formidabile effetto di traino. Certamente vorremmo avere a bordo anche le economie emergenti, per ciò fare è necessario intanto un fronte molto coeso da parte dei paesi sviluppati e poi anche però un altrettanto coeso impegno sul piano dei trasferimenti delle tecnologie. Non disponiamo di poterlo realizzare. E un'ultima cosa invece riguarda gli aiuti. Quanto parlare ancora di aiuti quando ancora non si sono rispettati gli impegni già presi anni e anni fa? Può essere serio e credibile? Questa è la mia domanda. Ma la crisi dà serietà e credibilità alla sua domanda e alla conseguente risposta. Nessuna rivoluzione di impegni crescenti, ma sobrio e serio assessment di quanto è stato fatto finora. E la ragione per la quale noi riteniamo di proporre l'indicazione di un metodo di accountability del G8 su quanto il G8 ha fatto e sta facendo, diciamo, in adempimento alle proprie decisioni, e questa è già una forte presa di coscienza e un forte messaggio politico sulla serietà degli intenti. Chiaramente la crisi si fa sentire e la ragione per cui noi chiaramente riaffermiamo i nostri commitment, ma è anche la ragione per la quale cerchiamo di dare al nostro impegno anche una dimensione più vasta, non esclusivamente basata su semplici trasferimenti finanziari. E questo era Gian Piero Massolo, ripetiamo, segretario generale della Farnesina, nonché Sherpa capo del G8 per l'Italia, al microfono di Sergio Nava. All'estero restiamo perché oggi è la seconda e ultima giornata di visita a Mosca per il presidente americano Barack Obama. Ha incontrato il premier Vladimir Putin. Ieri ricordiamo la firma dell'accordo con il presidente russo Medvedev per la riduzione delle testate nucleari. Andiamo a Mosca con Antonella Scott. Buongiorno Antonella. Buongiorno, sì, questa giornata è davvero una corsa contro il tempo per Obama, perché è fitta di impegni e dopo aver incontrato Putin, dopo aver parlato ai laureandi, gli studenti della New Economic School, Obama incontra la comunità imprenditoriale, businessmen russi, americani, i leader dell'opposizione, ha incontrato Gorbaciov, come se volesse il più possibile diffondere questo suo messaggio: ricominciamo da capo, abbiamo un approccio diverso. Ed è quello che è venuto fuori dall'incontro con Putin. Si temeva che fosse un po' più freddino rispetto agli incontri di ieri al Cremlino, e invece sembra sia andato bene, perché soprattutto Putin abbia apprezzato il fatto che Obama abbia detto: noi nei vostri rapporti con le repubbliche ex sovietiche come l'Ucraina e la Georgia terremo conto della relazione particolare che avete. Questo insistere sulla volontà dell'America di capire la posizione russa è qualcosa che viene apprezzato molto, ed è anche la frase che è piaciuta di più, diciamo, nel discorso università. Obama ha detto che l'America vuole che la Russia sia forte, pacifica e prospera, ed è proprio sulla base di questo che sarà possibile identificare gli interessi in comune e andare avanti a lottare insieme, come per esempio contro la proliferazione nucleare. Grazie allora anche per questa corrispondenza ad Antonella Scott da Mosca. 13 e 18 minuti, ben ritrovati con Extra Large. Nella prima parte siamo andati a Viareggio per i funerali di 15 delle 22 vittime, non solo caso e fatalità, ha detto l'arcivescovo di Lucca, che ha chiesto dunque verità per questa strage ferroviaria. Poi abbiamo parlato anche della preparazione del vertice G8 all'Aquila. Adesso invece andiamo a Roma, perché si va verso un possibile slittamento per quanto riguarda il DDL sulle intercettazioni telefoniche. Ce ne parla Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così, Alessio, slitta a settembre il disegno di legge sulle intercettazioni. Il governo ha comunicato oggi alla Commissione Giustizia del Senato che non c'è urgenza di approvare il provvedimento entro l'estate. Maggioranza e opposizione hanno convenuto che a luglio si procederà solo con le audizioni. Tutto ciò dopo i segnali di distensione arrivati ieri dal Presidente del Senato Renato Schifani e dal Presidente della Commissione Giustizia del Senato Filippo Berselli. Precedentemente, lo ricordiamo, il Capo dello Stato Giorgio Napolitano aveva convocato il Ministro della Giustizia Angelino Alfano al Quirinale per indicare alcuni punti controversi del disegno di legge. Intanto il Presidente del Senato Renato Schifani ha convocato per oggi pomeriggio la conferenza dei capigruppi per decidere il nuovo calendario dei lavori, proprio per intenzione della maggioranza di far slittare dopo l'estate l'esame, e subito dopo il Presidente Berselli riunirà la Presidenza per stabilire un calendario delle audizioni in commissione, tra cui la Federazione Nazionale della Stampa e il capo dell'antimafia Pietro Grasso. Il governo però avverte, rinvio a settembre non vuol dire un rinvio sine die. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E sempre a Roma restiamo, perché avevamo accennato prima agli scontri che ci sono stati intorno a due università romane da parte di giovani universitari che se la sono presa con le forze dell'ordine. Andrea Viali, che è successo? Sì Alessio, beh, più che di scontri parlerei di momenti di tensione. Io in questo momento sono all'Università La Sapienza, dove da un'ora, un'ora e mezza circa c'è un gruppo di una cinquantina, forse un centinaio di studenti che sta cercando di uscire dalla cittadella universitaria per una manifestazione che non è autorizzata, e quello che sta succedendo è che la polizia sta bloccando i vari ingressi dell'università per non farli uscire. Gli studenti si spostano da un ingresso all'altro, ma sono controllati da un elicottero dall'alto che ne anticipa i movimenti. Ecco, in uno di questi tentativi di uscire dalla cittadella universitaria sono stati bloccati da alcune camionette della Guardia di Finanza, che si sono anche tamponate e ne hanno prese a calci alcune. Ecco, azioni di questo genere stanno succedendo non soltanto qui alla Sapienza, ma anche in altre zone di Roma, e sono molte le azioni programmate nella città oggi, anche oggi pomeriggio, e sono tutte azioni appunto formate, a cui prendono parte poche decine di persone. È successo così a Roma 3, a Piazzale Ostiense, a San Lorenzo, a San Giovanni, in diverse zone della città. È stato anche bloccato, ma per alcuni minuti, lo svincolo dell'autostrada Roma-L'Aquila. E nel corso di queste azioni comunque la polizia sta intervenendo, ha fermato fino a questo momento sembra almeno una trentina di giovani che appunto stanno protestando. Per il momento dalla Sapienza, dove in questo momento la situazione è tranquilla, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Andrea. Dunque, allora ripetiamolo, nessuno scontro ma solo momenti di tensione sparsi qua e là oggi a Roma in occasione di queste manifestazioni di protesta degli universitari. Cambiamo argomento. 127 pagine per parlare di etica, economia, valori e la Caritas in Veritate di Papa Ratzinger. L'enciclica di Benedetto XVI presentata oggi è la terza. La Caritas era la parola presente anche nel titolo della prima enciclica, Deus Caritas Est, dicembre 2006, era centrata sul tema dell'amore, così come più strettamente di carattere teologico era stata la seconda enciclica, Spes Salvi, salvati nella speranza, del 2006. Vogliamo parlarne con il professor Luigino Bruni, docente di economia all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Soprattutto della parte economica, che sta già facendo abbastanza parlare di sé. Il Papa chiede un lavoro decente per tutti, invita a rivedere su una base di consenso etico più allargato le regole della globalizzazione. Qual è la visione dell'economia che ne viene fuori, professore? Ma è una visione in linea con la grande tradizione umanista che da sempre anche Giovanni Paolo II aveva rilanciato, ma Paolo VI, come è noto, l'enciclica si ricollega alla Populorum Progressio, l'enciclica del 67 di Paolo VI, dove si annunciava questa tesi ancora oggi molto attuale, lo sviluppo e il nome nuovo della pace. Quindi il Papa attuale riprende la Populorum Progressio come una pietra miliare e dice: bene, dov'è oggi l'attualità di questa idea di sviluppo, di progresso, di pace, di economia? E per la prima volta, in un modo sistematico, oserei dire, l'enciclica entra dentro categorie della scienza economica, anche non solo della prassi, ad esempio categorie come profitto, come imprenditore, come fiducia, mercato. C'è una riflessione sul mercato che è molto interessante. E dal punto di vista anche dei riferimenti all'attualità della crisi, si è molto parlato anche di questo, quali sono gli spunti? L'idea di fondo è che la crisi attuale non è principalmente una crisi finanziaria, ma una crisi antropologica ed etica. È scritto in modo esplicito nell'enciclica che questa crisi rimanda a un rapporto scorretto con la finanza, rimandano a rapporti sociali e interpersonali fondati sulla ricerca del profitto, quindi dove tutto diventa strumentale, tutto diventa mezzo per il profitto stesso. Quindi il Papa dice: se vogliamo che questa crisi non si ripresenti presto e magari con dimensioni ancora più gravi, dobbiamo ripensare e ristabilire rapporti dentro le imprese, nella finanza, nelle banche e a livello politico e istituzionale nuovi, non solo regole ma soprattutto etica. Questa mi sembra la linea di fondo dell'analisi della crisi che il Papa fa, cioè non è tanto un problema di maggiori regole o regole più forti, no? Come a volte oggi tanti dicono, invocano questa presenza più massiccia della politica e dell'economia, dice il Papa, certo occorrono regole, ma soprattutto occorre una rifondazione antropologica ed etica delle persone, cioè senza persone, imprenditori, speculatori, diciamo operatori della finanza, che si rapportano tra di loro in un modo etico e corretto, nessuna regola è sufficiente, cioè non bastano i leviatani, dico io, o le regole ferre per una buona economia, occorrono delle persone responsabili che agiscono a tutti i livelli in modo etico. E questo sicuramente è un impegno, un punto di vista che immaginiamo rimbalzerà anche al vertice G8 che parte domani all'Aquila. Grazie professor Luigino Bruni. Grazie a lei. Per essere stato con noi, ricordiamo docente di economia alla Bocconi. Sin qua dunque l'enciclica del Papa. Adesso svoltiamo decisamente pagina, perché parliamo dei funerali di Michael Jackson, che questa sera, quando saranno le 19 in Italia, alle 10 del mattino sulla costa occidentale degli Stati Uniti allo Staples Center di Los Angeles, il celebre stadio di basket, diretta TV in Mondovisione via internet, sarà probabilmente la più grande commemorazione di tutti i tempi, quella appunto di Michael Jackson, come ricordate, morto il 25 giugno scorso nella sua casa californiana, aveva 50 anni. Migliaia di dollari di fiori dal Giappone per Michael Jackson a inviarle fan che, non potendo raggiungere Los Angeles, hanno deciso di esserci lo stesso con rose rosse e bianche. Ogni corona e mazzo porta i nomi di chi li ha inviati e un messaggio. In uno si legge «We always love you», «Ti ameremo per sempre». Oggi è il giorno dell'addio, re del pop. Prima una cerimonia privata per la famiglia e pochi intimi per salutare Michael Jackson al Forest Lawn di Los Angeles, il cimitero delle star. Poi sarà la volta della grande commemorazione pubblica, in uno Staples Center blindato a cui potranno accedere solo coloro che avranno il biglietto. Oltre 1,5 milioni di persone hanno partecipato alla lotteria online, ma soltanto 8.750 sono stati fortunati estratti a sorte e avranno due biglietti e un braccialetto. 1.000 biglietti saranno invece consegnati ai familiari per gli amici del cantante. A salutare Michael Jackson, molte star che saliranno sul palco, da Jennifer Hudson a Stevie Wonder, da Lionel Richie a Mariah Carey a Brooke Shields. Presenti anche star del basket, da Kobe Bryant a Magic Johnson. Diana Ross dovrebbe limitarsi a leggere un testo in suo ricordo. Alla cerimonia pubblica saranno invece assenti sia l'ex moglie Debbie Rowe, sia la 77enne Elizabeth Taylor, amica di lunga data di Michael Jackson. E mentre migliaia di fan si preparano a quello che sarà il più grande addio pubblico della storia della musica, il tribunale di Los Angeles ha deciso di togliere alla madre di Jackson, Catherine, l'amministrazione provvisoria dei beni, affidandola, almeno fino al 3 agosto, giorno dell'udienza definitiva, agli esecutori del testamento, John Branca e John McClain. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. And a couple of years ago, me and my big brothers, and one day Miss Diana Ross herself came to town to sing a concert. Lo raccontava un Michael Jackson nella versione cartoni animati che la ABC mandò in onda dal 71 al 73. Tutto iniziò da Gary, Indiana, e tutto esplose grazie a Diana Ross. Questa serie animata, successo televisivo di una grande rete per tutti, sancisce il primo successo trasversale, un gruppo amato da neri e bianchi. 5 anni dopo un altro telefilm, questa volta sono loro in carne e ossa. I Jackson sono un fenomeno globalmente mediatico. Lo sono soprattutto Jermaine, il bello, e il cucciolo Michael, che iniziano subito una fortunata carriera solista parallela. Grazie al cinema il primo singolo solista di Michael, Ben. Grazie al cinema, al musical Il Mago di Oz, l'incontro con Quincy Jones, che da Michael tirerà fuori il meglio come cantante, autore, ballerino, performer, fenomeno mediatico. Off the Wall con Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You, di cui si ricordano i primi timidi video, e poi i grandi clip con cui Michael inaugura la generazione MTV, Billie Jean, Beat It e soprattutto Thriller, i 13 minuti di grande regia di John Landis. La televisione lo incorona, lo sostiene fino a Bad, poi fa banchetto della sua immagine pubblica e privata. È sempre più apparenza e meno musica, allo sbando, senza Diana, senza Quincy, senza protezione davanti alle telecamere, fino alla morte. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:34 minuti, GR Extra Large, le notizie di oggi. Non solo caso e fatalità davanti a 10.000 persone. L'arcivescovo di Lucca chiede verità per la strage ferroviaria di Viareggio. Tutto è pronto per il G8 dell'Aquila, in arrivo le delegazioni straniere fermate. Intanto 5 giovani francesi avevano mazze e altri oggetti. A Roma scontri vicino all'università, fermati 36 no global. Vogliamo una Russia forte e prospera, non siamo più antagonisti. Presidente americano Obama nel secondo giorno di visita a Mosca all'indomani della storica firma dell'accordo per la riduzione delle testate nucleari. Si intitola Caritas in Veritate, la nuova enciclica di Papa Ratzinger. Benedetto XVI chiede un lavoro decente per tutti e invita a ripensare le regole della globalizzazione. E ora parliamo invece del sorpasso in TV. Sky sorpassa infatti Mediaset per quanto riguarda i ricavi nel mercato italiano, lo sostiene l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni, che tra l'altro se la prende anche con i telegiornali italiani. Allora andiamo con Paola Cavadi, che ha seguito la presentazione della relazione. Paola. Sì, buongiorno Alessio, buongiorno ai nostri ascoltatori. È un'irresistibile ascesa quella del gruppo televisivo Sky, arrivato nel mercato italiano, come hai detto, al secondo posto per ricavi dopo la Rai. Clamoroso il sorpasso su Mediaset, che passa in terza posizione. Nella sua relazione annuale il presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Corrado Calabro, ha presentato i dati sui ricavi del settore nel 2008. Questo è il quadro nel dettaglio. Rispetto al 2007 il settore televisivo in assoluto ha fatto registrare una crescita del 4,1%, pari a 8,4 miliardi di euro di ricavi totali. Rai ha fatto poco più di 2 miliardi e 700 milioni, Sky circa 2 miliardi e 600, Mediaset 2 miliardi e 500 milioni circa. Ma sentiamo il presidente dell'Authority Calabro sulle ragioni di questo successo di Sky. Sky cavalca una tendenza che è diffusa in tutto il mondo, cioè quella del telespettatore di poter scegliere, non essere vincolata ai palinsesti. E Sky può farlo perché c'ha 200 programmi, però c'è un risvolto che si paga, quindi soltanto che ha disponibilità oggi a questa molteplicità di accesso. In Gran Bretagna invece la BBC, anche come televisione generalista, fornisce a tutti una molteplicità di trasmissioni e una TV interattiva che è all'avanguardia del mondo. Sulla necessità di una riforma rimasta in evasa della RAI. Lo scopo, ha detto il Presidente, deve essere quello di assicurare più efficienza e una maggiore indipendenza delle testate dalla politica. Pesa infine il giudizio dell'Authority sulla qualità della nostra informazione televisiva, se paragonata a quella di altri paesi del mondo, ha detto Calabro, somiglia più che a una finestra aperta sul mondo, a una fessura che si affaccia sul cortile di casa, troppo provinciale e spettacolarizzata. Secondo l'AGCOM, a cronaca e politica va lo spazio maggiore nei telegiornali, col 25% circa del tempo di diffusione. Seguono l'economia, lo sport e lo spettacolo. Alla cultura è dedicato solo l'1,6% dello spazio totale. Da Roma è tutto, a voi. Grazie Paola Cavadi. Si è svolto questa mattina al Ministero per lo Sviluppo Economico l'incontro con le associazioni di categoria dei benzinai, che però non ha portato risultati positivi, dunque confermato lo sciopero. Gli impianti resteranno chiusi sulla rete stradale dalle 19.30 di oggi fino alle 7 di giovedì 10 luglio. Diversi gli orari invece per quanto riguarda la rete autostradale: chiuderanno alle 22 di questa sera per aprire alla stessa ora del 9 di luglio. Esclusa dalla protesta la provincia dell'Aquila, che proprio in questi giorni ospita il G8, come abbiamo abbondantemente ricordato. In Sicilia invece lo sciopero è scattato già dalla mezzanotte di oggi. Le ragioni e le modalità di questa serrata le ha spiegate questa mattina a Soldi e Dintorni, ospiti di Deborah Rosciani, Alessandro Zavalloni, segretario nazionale di FEGICA CISL. Noi abbiamo due ordini di problemi sostanzialmente. Il primo riguarda la vertenza in atto con il governo, quindi una serie di impegni che il governo, il ministro Scajola in prima persona, aveva assunto già un anno fa col protocollo d'intesa del 20 giugno del 2008. E tra questi il bonus fiscale. L'altro fronte è quello, come dire, industriale, per cui la vertenza aperta con sostanzialmente tutta l'industria petrolifera. E quello è un altro nodo altrettanto fondamentale quanto il primo, perché determina, come dire, la sopravvivenza letterale di buona parte. Rinnoviamo degli accordi economici da 3 anni e questo chiunque dei cittadini di questo paese, anche le associazioni dei consumatori, hanno, come dire, dato atto. Non sono contente come noi ovviamente dello sciopero in atto, ma certo ci hanno dato atto di farlo per dei motivi che sono oggettivi. Ci sono dei margini per la quali potrebbe essere revocata, Zavalloni? noi chiediamo al Ministero un atto preciso, oltre a quello del bonus, che noi apprezziamo ovviamente, sul lato delle compagnie petrolifere, che il Ministero si faccia garante e soprattutto si faccia garante di un'azione concreta nei confronti delle compagnie petrolifere per il rispetto della legge. Il legislatore, per garantire la parte contrattuale più debole, che è quella dei gestori nei confronti delle compagnie, lo vedono tutti, ha inteso fare delle leggi che fissano le regole del gioco. Le compagnie le violano, noi chiediamo il rispetto della legge. E adesso invece, se siete lavoratori delle Poste, ma non solo, restate all'ascolto, perché secondo indiscrezioni rilanciate oggi da tutti i giornali, la Corte Costituzionale avrebbe deciso di bocciare la norma antiprecari contenuta nel decreto Tremonti, che nell'agosto dello scorso anno ha tentato di arginare gli effetti di numerosi ricorsi da parte dei lavoratori a termine delle Poste per ottenere un'assunzione a tempo indeterminato. Allora, riepiloghiamo. La norma prevedeva che al lavoratore con un giudizio pendente il 22 agosto del 2008 non spettasse l'assunzione a tempo indeterminato, il risarcimento invece delle retribuzioni maturate bensì un semplice indennizzo. Secondo la Corte questa misura viola il principio di uguaglianza. Allora, Paolo Piacenza ha sentito il coordinatore nazionale delle Poste del sindacato CGL, Graziano Benedetti. Intanto il primo giudizio è che è una sentenza giusta, da questo punto di vista noi abbiamo chiaramente criticato fin dall'inizio questa sorta di articolo 18 dei precari, che riguardasse fra l'altro in particolare molto Poste, e ha un effetto che si potrebbe ricondurre su una platea di 15.000 lavoratori che avranno, come si può dire, uno sblocco rispetto a percorsi che avevano attivato di impugnazione, quindi del contratto, che erano stati bloccati o congelati in relazione al decreto stesso. Insomma. E questo significa che questi 15.000 lavoratori potranno fare ricorso o hanno già fatto ricorso e ottenere giustizia rispetto alla loro integrazione progressiva all'interno di Poste Italiane. Senz'altro, questo si può dire è un elemento di importanza che non riguarda solo chiaramente l'ambito postale. L'ambito postale è rilevante per la quantità, però riguarda autostrade, riguarda cooperative, coop, nel senso supermercati, elementi di RAI, cioè c'è tutta una situazione complessiva che si libera questo macigno che da noi è stato dichiarato fin dall'inizio anticostituzionale rispetto a quello che sono la prospettiva di avere un posto di lavoro in cambio al danno che il lavoratore aveva subito. Con quel meccanismo si pagava solo una multa, quindi e si dava un rimborso economico al lavoratore, chiaramente non garantendogli il posto di lavoro per cui aveva lottato e sudato precedentemente. Non c'è un rischio di un effetto boomerang per i lavoratori attualmente occupati, per l'equilibrio dei conti delle diverse imprese, in particolare Poste, che ricordiamo è la più grande impresa italiana? Da questo punto di vista Poste Italiane ha messo in cantiere una dismissione di 15.400 lavoratori nel triennio, per cui il bacino si svuota, il bacino semmai si riempirà, visto che abbiamo carenza negli uffici postali dove si lavora tanto e male, carenze complessive nel recapito dove la posta non arriva per mancanza di copertura dell'organico, quindi noi crediamo che questo elemento possa essere assorbito attraverso questi meccanismi. Come sapete, mancano pochi giorni al 40° anniversario dal primo atterraggio dell'uomo sulla Luna, il 20 luglio del 1969. Ma qual è proprio in questi giorni lo stato dell'arte delle attività spaziali italiane? Allora sentiamo, perché proprio in questi giorni l'ASI italiana cerca di ritornare alla normalità. L'Italia rilancia il proprio programma spaziale. Il lungo periodo di commissariamento dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, si è infatti concluso in questi giorni. Si ritorna alla gestione normale, dunque affidata per i prossimi 4 anni alla presidenza di Enrico Saggese. Sentiamolo alla presentazione del report annuale 2008. Il report è molto importante sia perché in qualche modo chiude il periodo di commissariamento. Proprio tra ieri e oggi siamo passati dal periodo di commissariamento al periodo di funzionamento regolare dell'Agenzia. ed è il periodo, i prossimi 4 anni, chiave per mettere in pista tutte le decisioni che sono state già prese nel 2008. Da una parte l'evoluzione delle tecnologie relative all'osservazione terrestre e al controllo dello spazio aereo, dall'altra lo sviluppo di ExoMars, un progetto che si propone l'esplorazione robotica dei pianeti. E poi, a 40 anni esatti dal primo sbarco sulla Luna, non poteva mancare l'impegno per l'ampliamento della base lunare. L'Italia ha speso molto per la Stazione Spaziale Internazionale. Pensiamo che alla fine del programma previsto per il 2015 l'Italia avrà speso qualcosa come 2 miliardi di euro. Ha speso molto e ha ottenuto molto, ha fatto dei laboratori spaziali, si sta studiando proprio in questi giorni se uno dei nostri laboratori, forse Raffaello, verrà attaccato permanentemente alla stazione spaziale, e quindi questo è una testimonianza del livello di qualità dell'industria nazionale. Savino Gallo, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13:47, GR Extra Large, riprendiamo con la cronaca, perché c'è stata una maxi operazione dei carabinieri di Trieste che ha condotto all'arresto di ben 40 persone, erano tutti impegnati nel traffico di armi, di droga tra l'Italia e i Balcani. Commerciavano ogni tipo di droga, come eroina, cocaina, hashish, proveniente dall'Afghanistan e destinata al mercato italiano e sloveno. E anche ogni tipo di armi, come mitragliatori, kalashnikov, pistole e bombe a mano. Ma sono stati fermati. Si tratta di una ramificata struttura criminale radicata in Italia, Slovenia e Kosovo, i cui vertici sono stati arrestati nel corso di una maxi-operazione condotta dai carabinieri del ROS e dalla Procura Distrettuale Antimafia di Trieste. 40 persone arrestate, 80 indagate, droga e armi sequestrate. E questo è il primo bilancio dell'operazione, denominata Gasoline. Il tenente colonnello Roberto Casagrande, comandante del secondo reparto investigativo del ROS. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 65 kg di eroina in Italia e in Slovenia. Sono state documentate però complessivamente importazioni per circa 250 kg di eroina verso l'Italia, verso altri paesi europei, ma è stato documentato anche l'interesse delle organizzazioni in altri tipi di traffici di droga, in particolare di efedrina, di cocaina, di hashish, così come sono state sequestrate armi clandestine da guerra che erano destinate anche a organizzazioni italiane. Le indagini sono iniziate nel 2007 in piena collaborazione con le autorità slovene e kosovare e sono il risultato di un più ampio progetto europeo di cooperazione finalizzato a contrastare le organizzazioni criminali dei Balcani occidentali. Zelia Pastore, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora veniamo a Milano, perché, come anticipavamo poco fa, il Comune ha sospeso le ronde, quelle contenute anche nel decreto sicurezza, denominate in questo caso i Blue Berets, per ronde che stavano per strada, stavano nelle metropolitane. Il presidente dell'associazione, infatti, è un dirigente del partito di destra dell'MSI. Fatale è stata la tessera numero 090203 del Movimento Sociale Italiano, intestata a Vincenzo Scavo, ideatore e presidente dei Blue Berets, i baschi blu in servizio fino a ieri sulle strade milanesi e nelle stazioni della metropolitana dalle 22:30 in poi, con il compito di segnalare risse ed aggressioni e aiutare le forze dell'ordine. Il legame con il partito di ispirazione neofascista ha costretto il Comune di Milano a sospendere i vigilantes in blu, almeno fino alla fine dell'estate, fin quando cioè sarà emanato il regolamento che farà chiarezza sulle caratteristiche dei volontari della sicurezza. Il vice sindaco Decorato, in attesa di sapere se le ronde blu sono in regola o meno, ha deciso di sospenderne il contratto dal valore di quasi 200.000 euro. L'allarme sulla vicinanza dei Blue Berets all'estremismo di destra era stato già lanciato dalla senatrice del PD Marilena Adamo. Adesso fanno tutti i sorpresi, gli stupefatti. Io è dal 2 di luglio dell'anno scorso che ho fatto un'interrogazione al ministro dell'Interno dicendo: caro ministro, sa cosa sta facendo il Comune di Milano, sia sulla legittimità del bando, e che tra i vincitori c'è un'associazione i cui rappresentanti, quelli più di spicco, sono notoriamente legati ai movimenti di estrema destra. Quindi il fatto che adesso sia montata finalmente questa cosa al punto da indurre il Comune a sospendere, da un lato mi fa piacere, ma dall'altro non sono disponibile a credere alla buona fede. Cancellate le ronde blu, a vigilare sulle strade milanesi il Comune ha confermato le altre due associazioni, i City Angels ed i poliziotti in pensione, che non rischiano nuovi clamorosi licenziamenti. Massimo Discenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Condanna in primo grado a 3 anni e 6 mesi per i 4 poliziotti accusati dell'omicidio di Federico Aldrovrandi, ragazzo di 18 anni. Ricorderete che il 25 settembre del 2005 morì dopo essere stato fermato da 2 volanti della polizia. Il giudice del Tribunale di Ferrara ha accolto le richieste dell'accusa per la quale il ragazzo è morto in seguito alla colluttazione con gli agenti e non perché sotto l'effetto di droga. E allora al microfono di Maria Chiara Grandis ascoltiamo la madre di Federico, Patrizia Moretti. L'unica sentenza che ci aspettavamo, quella che abbiamo tanto, ci siamo tanto battuti per ottenere, la sentenza nella quale abbiamo sempre creduto e che è finalmente arrivata. Il giudice ha riconosciuto la loro colpevolezza, come giusto che sia. I legali dei 4 agenti dicono che ricorreranno in appello. Lei cosa ribatte? Che facciano, saranno condannati di nuovo perché sono colpevoli. Io come mamma so che hanno ucciso mio figlio, che lui non meritava, come nessun ragazzo al mondo, ma lui in particolare, mio figlio non meritava di incontrare quelle persone, purtroppo le ha incontrate sulla sua strada. Loro hanno commesso questo omicidio e sono stati condannati, è quello che abbiamo sempre chiesto. Sono convinta della loro colpevolezza, che sarà portata avanti in ogni grado di giudizio, ma sono colpevoli. E sempre a proposito della vicenda, sentiamo anche la testimonianza di Checchino Antonini, giornalista di Liberazione, che per primo iniziò a occuparsi del caso. Questo caso arriva sulla prima pagina di Liberazione, poi rapidamente conquista altri spazi sui mass media e inizia così una nuova vita per questa inchiesta. Innanzitutto, per motivi ancora tutti quanti da chiarire, la PM si dimette. Immediatamente ci si rende conto che fino alle prime ore di quella mattina buona parte della questura di Ferrara si era mobilitata per in qualche maniera condizionare le indagini. Bisogna sempre riferirsi a un contesto. Allora, Ferrara è una città molto piccola e su questo caso si è messa in moto una macchina di potere. E ricordiamo che a un certo punto noi scopriremo che alcuni brogliacci del centralino della questura sono stati truccati. La mamma di Federico parla di una sentenza democratica. Credi che sia così? Io credo che per una volta in un tribunale italiano che siano state riconosciute non al di sopra della legge, come invece tristemente in questi decenni è troppe volte successo il contrario. E adesso siamo quasi in chiusura, una anticipazione del programma di sport in onda tra poco. Roma 2009, mondiali di nuoto. Ha scelto un'isola tutta sua, Filippo Magnini, per dimenticare Pechino 2008 e prendere la rincorsa verso Roma 2009. Troppo forte la delusione per chi, come lui, 2 volte campione del mondo sui 100 stile libero, a Montreal 2005 e a Melbourne 2007, a pari merito con il canadese Hayden, ai giochi olimpici in Cina non aveva raggiunto per un pugno di centesimi proprio la finale della gara della vita. E allora, a 27 anni, Filippo Magno, da Pesaro, si è seduto per un po' a bordo vasca, giusto il tempo per ritrovare l'abbracciata migliore. Io ho deciso di stare all'isola perché le Olimpiadi mi erano andata male. Comunque io avevo intenzione di staccare un po' la spina ugualmente, anche se avessi vinto le Olimpiadi. Quindi la mia scelta era già stata fatta prima di comunque mollare un po' la presa come allenatore. C'è stata questa occasione qua e ho preso la palla al balzo, mi sono divertito molto, ho ricaricato le batterie di testa e sono tornato in acqua con molta più voglia di prima. Finita l'esperienza TV, Filippo si è rituffato in piscina con un nuovo sponsor tecnico, da Arena a Speedo, ma con la stessa voglia di essere il primo al mondo. I rivali? Tanti, dall'australiano Sullivan al francese Busquet, ma uno su tutti, proprio quell'Alain Bernard, trionfatore a Pechino e che lo ha battuto anche ai recenti giochi del Mediterraneo. Le gare sono tante, poi ovvio io tengo di più ai 100 perché è la gara che mi ha un po' consacrato e la gara che mi piace, quindi preferisco vincere quella là, almeno cercherò di fare di tutto per vincere questa gara qua. stavolta ha vinto Bernard, però comunque io sto lavorando, starà lavorando anche lui, e quindi va bene così, accettiamo anche questo. Ho fatto un ottimo tempo, quello era l'importante. È difficile scendere sotto i 48 comunque, va bene così, io sono contento. Pensavo di stare molto peggio in questo momento, pensavo di riuscire a nuotare magari sotto i 49, sono veramente molto contento di questo risultato. Insomma, quello che nuota verso Roma 2009 è un Magnini che non dimentica la lezione cinese e punta dritto a un tris mondiale da leggenda. Comunque le sconfitte servono anche a questo, quindi si impara dagli errori. Io a Pechino ho fatto nei 200 serie libero la seconda prestazione mai nuotata al mondo dopo Phelps, e nei 100 serie libero ho fatto in staffetta, ho nuotato un decimo più di Alain Bernard, che poi ha vinto le Olimpiadi, quindi sono a livello loro. Soltanto non sono riuscito a rifare quella prestazione nel momento della gara, quindi è un rimpianto, è una gara sbagliata, però ci sta, nello sport è questo, bisogna saper vincere e perdere, una volta che si perde bisogna tirarci su più forti di prima, quindi a Roma andiamo con molta più convinzione. GRX Large, le notizie di oggi. Non solo caso e fatalità davanti a 10.000 persone, amici e parenti delle vittime. L'arcivescovo di Lucca chiede verità per la strage ferroviaria di Viareggio. Tutto è pronto per il G8 dell'Aquila, in arrivo le delegazioni straniere, ma sull'organizzazione del vertice è polemica. La stampa britannica accusa l'Italia presto fuori dal G8, solo sciocchezze, replica il ministro degli esteri Frattini. A Roma momenti di tensione, fermati 36 no global. Vogliamo una Russia forte e prospera, non siamo più antagonisti. Obama, al secondo giorno di visita a Mosca, all'indomani della storica firma dell'accordo per la riduzione delle testate nucleari. Sorpasso in TV. Sky sorpassa infatti Mediaset per i ricavi nel mercato italiano, lo dice l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che se la prende anche coi i TG nostrani. Più che una finestra sul mondo, sono una finestra sul cortile di casa. Si intitola Caritas in Veritate, la nuova enciclica di Papa Ratzinger. Benedetto XVI chiede un lavoro decente per tutti e invita a ripensare le regole della globalizzazione. È tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio in studio, il coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Fabio Cantadori. Adesso arriva lo sport con Carlo Genta. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.